questo giovedì 5 aprile. Intanto uno sguardo ai titoli di apertura, quasi tutti declinati sul tema riforma del mercato del lavoro dopo l'intesa trovata ieri sul nuovo testo contratti articolo 18, come cambia il lavoro, così apre il Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera invece così cambia il mercato del lavoro. Repubblica, articolo 18, torna il reintegro, identico titolo anche per la Stampa. Mentre il Giornale la vede così, la finta riforma, Monti cala le brache. Per il Secolo XIX, licenziamenti, torna al reintegro. Il Messaggero, articolo 18, c'è il reintegro. L'Unità infatti titola reintegrati e ci sono dei lavoratori fotografati. Mentre il Manifesto mette la foto del ministro Fornero e del premier Monti, lavoro compromesso. Per Avvenire, lavoro torna al reintegro. Mentre chi sceglie aperture diverse è il Fatto Quotidiano, che anche graficamente colpisce nel titolo In un paese di ladri, e la parola ladri è scritta a caratteri cubitali. Mentre Libero, la casa di Bossi e il giallo dell'eredità, il carroccio nella bufera. Ma parleremo ampiamente ovviamente di questo, la vicenda Lega, tra poco. Prima voglio partire da che cosa? Allora, la notizia che dicevamo ieri come indiscrezione della possibilità che il presidente dell'Istat, Giovannini, si potesse dimettere dalla commissione che doveva stabilire come livellare, parametrare gli stipendi dei politici e degli alti burocrati dell'amministrazione a livello europeo, era sul punto di dimettersi Giovannini, era questa l'indiscrezione. Ieri è stato anche ospite di Focus Economia, Radio 24, e la conferma c'è, insomma, il presidente dell'Istat si è dimesso da questa commissione. È l'ammissione di un flop totale che lo stesso Giovannini non nega. Lascia la commissione sui costi della politica, compito impossibile. Questo è il titolo a pagina 19 del Corriere della Sera. Materiale per chi si scaglia contro la casta, e infatti guardate Libero, la casta non si taglia la paga, impossibile. C'è anche un lungo articolo in prima pagina del Giornale firmato da Mario Giordano. Non ce l'hanno fatta a tagliare gli stipendi dei parlamentari, proprio non ci sono riusciti, hanno messo insieme un gruppo di professoroni, roba da Pico della Mirandola, Archimede, Pitagorico, cervelloni con curriculum lunghi come la Quaresima, prof, av, cav, granduff, ordinari di università, 2 e 3, titolari di cattedre, saperi dottorali, giuristi, economisti, bocconiani, hanno trasformato il gruppo in una commissione, hanno dato la poltrona al presidente della commissione, al capo dell'Istat, Giovannini, e hanno dato loro 7 mesi di tempo. E alla fine questo grumo di intelligenza riunito, questo concentrato di sapienza universale, cosa ha prodotto? Niente. La resa. Bandiera bianca. Gettiamo la spugna. Gli stipendi dei parlamentari sono i più alti d'Europa, ma non si possono tagliare, hanno concluso. E hanno sciolto la commissione. Roba che verrebbe da sciogliere anche la loro laurea nell'acido, però. Acidissimo, devo dire, il commento di Mario Giordano. Per giustificare il loro fallimento, scrive ancora Giordano, i professoroni si sono attaccati un po' a tutto. Nel comunicato finale, dopo essersi elogiati per l'intenso lavoro, fanno riferimento alla eterogeneità delle situazioni riscontrate in altri paesi, alle difficoltà incontrate nella raccolta dei dati. Qualsiasi studente al primo anno di università sarebbe mandato a casa con un calcio nel sedere se si presentasse all'esame con una preparazione così modesta, ma loro, i professoroni, capeggiati dal presidente dell'Istat, invece no, loro dominano la statistica nazionale, maneggiano i numeri della contabilità pubblica. Avete capito bene, fanno anche da docenti e consulenti. Consulenti de che? Non riescono nemmeno a raccogliere 2 dati sugli stipendi dei parlamentari europei? Mi dite voi come diavolo fanno a presiedere l'Istat? Insomma, il durissimo commento di Mario Giordano, onorevoli stipendi intoccabili, si arrendono anche i cervelloni. Giovannini fa un'intervista, Enrico Giovannini, presidente dell'Istat, al Secolo XIX, mi dimetto, è impossibile tagliare gli stipendi alla casta. Insomma, come li tagliamo questi dipendenti? Qui non erano in ballo solo gli stipendi dei parlamentari, risponde Giovannini, ma anche quelli dei presidenti di autority, agenzie come Aran, Civit, sindaci, governatori, dirigenti di alto grado di ministeri, tanto per fare esempi. Avevamo già segnalato, non si sono verificati i presupposti della legge, a cominciare dal fatto che all'estero ci siano strutture analoghe a quelle italiane. Invece, su 30 tipologie di enti, solamente in 9 casi negli altri paesi esistono istituzioni analoghe. Vale a dire Agenzia del Farmaco, Antitrust, Autorità per le Comunicazioni, Consob, Garante della Privacy, Regioni, Comuni, Camera dei Deputati. Ma non è stato possibile neanche calcolare la media degli stipendi, i dati che abbiamo ricevuto erano troppo eterogenei, non ci sono stati trasmessi per questione di privacy, non in tutti i paesi c'è la trasparenza che vige qui da noi. Insomma, la conclusione amara, come li tagliamo ora questi stipendi, chiede il secolo XIX, non sta a me dirlo. E insomma, una commissione che ha lavorato per 7 mesi e che alla fine ha gettato la spugna. Impossibile, non si riesce a calcolare, a parametrare, a fare, ad avere i dati, eccetera, e il risultato non si può riuscire a tagliare. Io domani vorrei avere Margherita Hack, nostra ospite, ci proveremo, oggi la chiameremo. Margherita Hack si è resa protagonista di una vicenda di cronaca, è andata a rinnovare la patente, si è accomodata nello studio del dottor Giuseppe Caragliu, il quale ha visto la carta d'identità, ha detto: cara professoressa, signora Hack, lei ha 90 anni, e io la patente non gliela rinnovo. Patente negata alla Hack. Ma i novantenni sono un rischio? Questo si chiede il Corriere della Sera. Con Mauro Kovacic, accintasi a rinnovare la patente di guida, la signora Margherita Hack, astrofisica di fama mondiale, che non stento a immaginare la cloche di shuttle e navicelle spaziali di ogni genere, a causa dell'età avanzata non è stata visitata dal medico incaricato. Lei ha detto: non sono vecchia, per la verità ha detto anche: non sono rincoglionita, ho 90 anni, ma so guidare, ho una Fiat Panda, guido dal 52, non ho mai provocato o fatto alcun incidente, un comportamento del medico incostituzionale. Sta di fatto che il medico gli ha detto: signora, no, io posso rinnovarle, fare un certificato di idoneità fisica, ma sa, a questa età il fisico... Il fisico non nel senso dell'astrofisico, proprio il fisico suo, magari nel giro di 6 mesi cambiano le condizioni. E quindi, ma insomma, anche una pagina su Repubblica: ho 90 anni e posso guidare. E Margherita Hack diventa la capofila della battaglia per la patente. E anche il giornale, una pagina: è anziana, niente patente. Tanto che voglio lasciarvi prima della pubblicità con il buongiorno di Massimo Gramellini. Sulla soglia dei 90 anni, Margherita Hack si presenta allo studio del dottor Garagliu per il rinnovo della patente, ma il dottore si rifiuta di visitarla. In base alla legge, spiega, il medico deve rilasciare un certificato di idoneità alla guida della durata di 2 anni, mentre all'età della Hack le condizioni di salute possono peggiorare da un momento all'altro. E quindi ci vuole un'apposita commissione sanitaria per fare tagliandi più brevi. L'astrofisica punta il telescopio dell'indignazione sul malcapitato e lo disintegra, manco fosse un meteorite, strillando di abuso incostituzionale. Questa storia che spaccherà le famiglie italiane, novantenni motorizzati con la Hack, figli e nipoti preoccupati per la carrozzeria dell'auto con il dottore, si presta a 2 considerazioni. La prima è che la seconda rivoluzione, accanto a quella digitale per cui la nostra epoca entrerà nei libri di storia, è il prolungamento della vita attiva. Per l'anzianissimo di oggi l'auto è sinonimo di indipendenza, anche se ormai con la benzina 2 euro per poterla guidare occorre non solo una salute di ferro ma una pensione d'oro. La seconda considerazione, e me ne scuso con la geniale signora, è che le regole non sono di pongo, adattabili a piacere. Alcune saranno magari stupide, ma hanno una loro logica, come quella evocata dal dottore Pignolo, perché il fisico, come lo Stato, ha le sue leggi e le leggi vanno rispettate anche dai fisici. 24 mattino. E allora eccoci qua alle 7:36 minuti con tutte le novità per quel che riguarda la riforma del mercato del lavoro. Questa è la notizia di apertura per quasi tutti i giornali. Tra l'altro sul Sole 24 Ore trovate un numero, la prima parte monografica, 24 pagine, tutte dedicate proprio alle novità, con anche il testo presentato. L'ultima modifica sulla quale c'è stato l'accordo tra parti sociali, non tutte per la verità, e governo è la questione dell'articolo 18, la vera novità è che l'ultima modifica rientra la questione del reintegro. Se il motivo economico è insussistente e lo deciderà il giudice, c'è la possibilità del reintegro, ciò che chiedevano i sindacati. Pagina 2 del Sole con Eugenio Bruno e Andrea Maria Candidi, una riforma a 360 gradi del lavoro in 72 giorni è quella che il governo ha messo nero su bianco quando ha avviato dal 23 gennaio il confronto con le parti sociali fino a ieri, quando il testo del disegno di legge Fornero è giunto al Quirinale dopo l'ultima trattativa notturna coi partiti della maggioranza. Tra le novità delle ultime ore spicca appunto il ritorno del reintegro del lavoratore nei licenziamenti economici insussistenti, la fissazione a 24 del numero di mensilità indennizzabili in caso di allontanamenti disciplinari, la riduzione al 30% per i prossimi 3 anni delle stabilizzazioni per l'assunzione di nuovi apprendisti, ma anche l'applicazione della stretta sulle partite IVA solo a partire dal prossimo anno, la limitazione del giro di vite sui Coco Pro ai nuovi contratti, insieme alla scoperta che i temi su cui serviranno i tempi supplementari della delega all'esecutivo saranno 4: politiche attive, tirocini formativi, apprendimento permanente e pubblico impiego. E tra poco ci arriveremo sul pubblico impiego. Insomma, queste le novità, poi tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore. Per l'appunto, Monti ha parlato di riforma importante, con un testo vagliato dai 3 leader politici, per cui ora mi aspetto un iter sereno e rapido in Parlamento. Il ministro Fornero ha detto: ora le aziende non hanno più l'alibi dell'articolo 18 per non investire in Italia. Sta di fatto che le reazioni, proprio per esempio delle imprese, sono state molto dure. Modifiche inaccettabili, così hanno certificato congiuntamente le imprese, Confindustria, ABI, ANIA, Alleanza delle Coop e le altre organizzazioni che avevano sottoscritto il verbale proposto dal Presidente del Consiglio. A pagina 7 del Sole 24 Ore Nicoletta Picchio racconta invece di come ci sia in questa nota congiunta una marcia indietro dopo le modifiche definite appunto inaccettabili, come è stato messo nero su bianco dal mondo delle imprese. Mentre i sindacati, Bonanni della CISL fa un'intervista al Sole 24 Ore, intervistato da Giorgio Pogliotti, dice: siamo soddisfatti, la questione che più ci preoccupava, la tutela dei licenziamenti economici fraudolenti, si è risolta proprio come abbiamo auspicato, con la decisione del giudice di poter stabilire il reintegro nei casi in cui si manifesta l'insussistenza delle motivazioni economiche. C'è poi lo slittamento di un anno sulla questione delle strette delle partite IVA, che può servire alle aziende per prepararsi a riconfigurare il rapporto di lavoro delle false partite IVA, per trasformarlo da lavoratore autonomo, da lavoro autonomo a lavoratore a lavoro dipendente. Dunque, entusiasmo anche su questo e dunque soddisfazione, mentre più cauta è la CGIL. Susanna Camusso fa sapere: finché non c'è un testo non commentiamo, non vorremmo trovarci delle sorprese, tanto che a pagina 5 del Corriere della Sera si titola così: la CGIL non si fida. Gli industriali invece contrari, come detto, modifiche inaccettabili così hanno stabilito in questa nota congiunta. Il pubblico impiego, allora, io da qualche tempo, quando dicevo ma cosa sono i panda pubblici, i panda da proteggere, cioè un'eventuale riforma perché non dovrebbe essere applicata anche per i dipendenti pubblici? In realtà verrà applicata anche ai dipendenti pubblici. Ora adeguiamo le novità alla pubblica amministrazione. Così il ministro Fornero ha risposto dicendo: certo, la riforma del mercato del lavoro riguarderà anche i 3,4 milioni di dipendenti pubblici. Ci vorrà però una delega ad hoc, ci vorrà un po' più di tempo, perché questo ha chiesto il ministro alla pubblica amministrazione e Patroni Griffi. Cioè, tu, Fornero, ha detto Patroni Griffi, hai avuto tutto il tempo di fare il tavolo con le parti sociali, ora anche io ho bisogno del mio tempo per incontrare tutti i sindacati del pubblico impiego e cercare di mettere a punto un raccordo normativo che regoli anche i dipendenti del lavoro pubblico, considerando però la loro peculiarità. Che cosa vuol dire in concreto? Lo scopriremo vivendo. Sta di fatto che l'idea è quello di avere un DDL delega che comprenda anche tutto il mondo dei dipendenti pubblici. Intanto in questa situazione fa ha fatto scalpore la dichiarazione di Antonio Di Pietro in Parlamento, che l'avete sentito nel giornale radio, imputa alla coscienza di Monti i suicidi, tanti, purtroppo troppi, sempre più suicidi che ci sono in questi giorni. Di Pietro shock, usa anche i suicidi contro il Premier, così titola l'Unità, mentre è durissimo e graffiantissimo Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa, suicidi a pagina 3. Quando dice che Monti ha i suicidi sulla coscienza, Di Pietro sa di cosa parla. Approfondì la materia durante Tangentopoli. Tra l'altro, su questo tema molto molto delicato, drammatico, vi segnalo oggi una pagina del Manifesto molto interessante, a pagina 6, Eleonora Martini, se fallire è come morire. L'iniziativa nazionale di artigiani, commercianti, microimpresari per aiutare con i professionisti della psiche chi soccombe alla catastrofe economica. Sono sempre di più le associazioni che nascono insieme a psicologi, insieme a organizzazioni locali, che cercano di sostenere gli imprenditori in difficoltà. L'aiuto economico non basta e allora ecco che arrivano i coach dello spirito. Per esempio, un piccolo imprenditore di Besnate, Varese, ha pensato bene di chiedere aiuto ai professionisti della psiche, ha messo su una rete di psicologi volontari disponibili in tutta Italia, che prestano un primo soccorso telefono gratuito a chi si sente schiacciato dalla responsabilità del fallimento di un'intera famiglia, dal crollo di molte famiglie. Anche la Caritas a Montebelluna, per esempio, in provincia di Treviso, ha aperto uno sportello del genere. Ma terraferma è la prima iniziativa del genere senza finanziamenti, con finalità esclusivamente solidaristiche a livello nazionale. Terraferma, dunque, è il nome di questa iniziativa nata in provincia di Varese. Un'idea partorita durante gli incontri del movimento Imprese che Resistono, nato nel 2009, racconta Massimo Mazzucchelli, l'uomo che da Besnate ha messo sulla rete d'aiuto psicologico. Per chi volesse, www.terraferma-icr-it. Il Manifesto dà questo indirizzo, insomma, a chi aiuta gli imprenditori in difficoltà. E l'altra grande notizia sui giornali è la vicenda della Lega. Sviluppi abbastanza inquietanti, devo dire, per i militanti leghisti, per il movimento Lega, per quel che si legge sui giornali. La Padania, l'assalto finale del sistema, titola così, una bufera per mettere il bavaglio all'unica voce scomoda. Sta di fatto che se uno legge gli stralci delle intercettazioni che escono sul Corriere, per esempio, e sugli altri giornali, leggiamo a pagina 14 e 15 del Corriere della Sera l'articolo di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella. Case, Porsche, lauree, la lista dei soldi a Bossi, è una fitta sequela di telefonate alla procura di Napoli, intercettati soprattutto l'ex tesoriere Belsito e Nadia Dagrada, impiegata amministrativa leghista. La vedo brutta, per esempio, in un'intercettazione. Ma sentite cosa dice Dagrada a Belsito. Gli dici a Bossi: capo, guarda che è meglio sia ben chiaro, se queste persone mettono mano ai conti del federale, vedono quelle che sono le spese di tua moglie, dei tuoi figli, e a questo punto salta la Lega. Papale, papale, glielo devi dire. Ragazzi, forse non avete capito che se io parlo, voi finite in manette o con i forconi appesi alla Lega. Sentite, in altre telefonate la lista si allunga. L'ultima macchina del principe, 50.000 euro. Il principe sarebbe Renzo Bossi. Oppure i costi liquidi dei ragazzi di Renzo. Forse gli uomini della scorta, che Belsito ricorda in 151.000 euro, ma la segretaria lo corregge, sono 251.000 euro. E poi ancora, sai, Belsito dice, quanto gli ho dato l'altro giorno alla nera. La nera sarebbe Rosi Mauro, vicepresidente del Senato, leghista, vicina a Bossi. Quasi 29.000 euro, 29.142 in franchi. Vuoi che ti dica tutti gli altri di prima? E ancora, sentite la linea di Belsito con la dipendente Dagrada, gli dice ancora, se apro bocca io gli devi dire il capo salta e se salta il capo tu sei morta, a Rosi Mauro, perché se lei non c'ha il capo a difenderla, lei domani è in mezzo a una strada. E ancora, questa è la linea, devi dire altro che la Tanzania, se vanno in mano ai militanti queste cose non vengono a prendere me, ma vengono a prendere voi. Insomma, in queste telefonate apparirebbe davvero una vicenda di conti, di soldi ai figli di Bossi, alla moglie di Bossi, ma ce n'è ancora dopo le informazioni sul traffico. Insomma, in queste intercettazioni sbobinate che trovate sui giornali ci sarebbero le prove, comunque le frasi che parlano, fanno capire di soldi e dati, non solo soldi ma anche beni materiali dati a Bossi, ai suoi familiari, anche sul Fatto Quotidiano, pagina 3, le telefonate di Belsito, lui vuole cacciarmi, io ho le fatture delle auto e una sua registrazione, Bossi si cagherà sotto e non avrà il coraggio di rimuoverti. Così appunto sempre la segretaria Nadia Dagrada dice a Francesco Belsito in una telefonata. Ma spunta di tutto. In due giorni stanno spuntando case, per esempio. Guardate Libero, una storia che misteriosa che abbiamo scoperto, la casa di Bossi e il giallo dell'eredità. La vicenda è raccontata a pagina 2, la casa in eredità venduta da Bossi racconta di una signora di 80 anni, Caterina Truffelli, leghista doc, che è morta e non ha lasciato nulla ai parenti, ma ha lasciato la casa, una casa, a Umberto Bossi. L'anno scorso questa casa il Senatur l'ha venduta, 7 vani a Milano, era un lascito, come segretario della Lega ha incassato 480.000 euro, questo secondo la ricostruzione di Libero, ma questi soldi non sarebbero mai stati versati al partito. Non l'ha dichiarata, ora rischia, così scrive anche a pagina 3 Franco Bechis. E che il clima sia da resa dei conti all'interno della Lega lo si capisce abbastanza dai retroscena di politica. Rodolfo Sala, per esempio, fa un retroscena su Repubblica che, se volete, ha anche dei risvolti umani molto molto particolari. Sentite cosa sarebbe successo l'altro ieri. Sede della Lega, muto e incredulo, Umberto Bossi davanti ai suoi colonnelli della Lega che per la prima volta gli dicono che è tutto vero, anche se lui non sapeva nulla. Vere le contestazioni degli inquirenti sui soldi della Lega serviti per ristrutturare sua casa, Gemonio, per comprare il macchinone a Renzo. Glielo dicono in via Bellerio durante la drammatica riunione della segreteria politica. E Bossi assicura che il Trota sta studiando economia, la laurea è vicina, mi ha fatto vedere il libretto. Ma i colonnelli insistono e quando un leghista di rango gli fa notare che non è così, all'Umberto sembra franare il terreno sotto i piedi. Mi ha detto che paga il leasing della macchina, dice Umberto Bossi ai colonnelli. Guarda che non è vero. Allora, a questo punto, si attacca al telefono, i tratti del volto sfigurati dalla rabbia, chiama Renzo, poi molla la riunione, va dalla moglie, a Gemonio, dalla Manuela, dai figli, pesantemente lambiti dalle inchieste di 3 procure. Ma prima ci sono anche gli addebiti a Rosi Mauro, esponente di spicco della Lega di Famiglia. Gli chiedono di spiegare una storia di una casa in Sardegna, adibita a sede del sindacato della Lega. Questa storia non esiste, è solo casa mia, dice Rosi Mauro. Insomma, clima da resa dei conti, tanto che, secondo il Corriere della Sera, pagina 17, oggi Umberto Bossi, al Consiglio federale di questo pomeriggio, sarebbe pronto alle dimissioni. E questo sarebbe davvero un momento, una svolta storica dal punto di vista del movimento che è nato per, con Umberto Bossi. Stiamo a vedere, gli sviluppi certo ci saranno in questa Pasqua non simpatica per la Lega. Noi parleremo anche di calcio scommesse alle 8:30. Masiello, che è quel giocatore del Bari che ha ammesso di aver fatto un autogol apposta per 250.000 euro, accusa, pare che voglia parlare, pare che voglia vuotare il sacco, ci sono intercettazioni anche qui. Ce n'è una, per esempio, il tentativo di contattare l'attuale allenatore della Juventus, Antonio Conte. C'è un SMS in cui due delle persone indagate dicono: prova a contattare Antonio Conte, quando era allenatore del Siena, per vedere se in qualche modo è contattabile, diciamo così. Però dopo 2 giorni pare che sia arrivata la risposta di questa persona dicendo: ho provato a contattarlo, inutilmente gli ho mandato un sms. C'è un tentativo di anche agganciare Antonio Conte. Fammi sapere se Conte è contattabile. Questo infatti è il titolo a pagina 20, ma pare che ci sia dentro anche Milan Bari tra le partite dell'anno scorso, anche qualche partita di quest'anno. Insomma, una vicenda davvero che sembra allargarsi a macchia d'olio. Come voglio concludere? Ho pochi secondi. Concludo con un'inchiesta che sta sfiorando l'ex ministro Paolo Romani, del ministro del governo Berlusconi, indagato per il telefono scroccato al comune. E Romani che fa? Accusa la figlia. Lo racconta Libero a pagina 13, la vicenda di un telefonino intestato all'istituzione a Paolo Romani come assessore al comune di Monza. È una vicenda che ha tirato fuori un giornale locale, il Giornale di Monza, che ha indagato, perché a quel telefono rispondeva sempre Lucrezia Romani, la figlia dell'ex ministro, al che alla 10ª telefonata del Giornale di Monza, in cui risponde la figlia, dice: perché lei ha questo telefono intestato a suo papà e pagato dai contribuenti? E da lì è nata l'inchiesta. Romani accusa la figlia, accusato di peculato, 2.500 euro al mese la bolletta della figlia. Però lui si difende così: è colpa di mia figlia. Il giornale radio.